Now, this is going to be our last this is going to be our last Dhamma talk for this first section of the April retreat. Quindi questo sarà l'ultimo discorso di questa prima parte del ritiro di aprile. Now, during the past 8-9 days, all of you have practiced very diligently, in a very wholehearted manner, in a committed manner, and have results arisen or not. Quindi molti Any di voi in questi there to show? In questi giorni molti di voi hanno praticato veramente impegnandovi al massimo con tutto il cuore e secondo voi ci sono stati dei risultati? Avete visto dei risultati della vostra pratica? Yes, no. Matt says many. Oh. Okay. And the others all keep quiet. E gli altri che stanno zitti? Well, some of the benefits that arise from practice have already been outlined in two earlier talks, namely the two wisdom talks, and some of the benefits to be gained from the first insight knowledge itself are a first purification of you, but this of course is not the only purification of you. E quindi abbiamo già parlato, abbiamo già sottolineato i tanti benefici che derivano dalla pratica, dalla consapevolezza, soprattutto in due discorsi sulla saggezza. Comunque vale la pena di sottolineare ancora che ci sono dei grandi benefici dalla pratica con il raggiungimento con lo sviluppo della prima conoscenza dell'insight. E il più importante di questi benefici è la purificazione della giusta visione, del giusto modo di vedere. And so what this purification of you here means is that one has learned to discern physical formations from mental formations, and suddenly with this one realizes that suddenly there is ultimately no being to speak of. E quindi cosa si intende per questa purificazione della visione? Adesso traduco così, ma visione vuol dire ovviamente modo di vedere. Significa che attraverso la pratica si è realizzato, insomma si è venuto a conoscere la differenza tra i fenomeni fisici e i fenomeni mentali, come due fenomeni, due categorie di fenomeni separati. And also the second thing you said, mind and matter, physical and mental. There's just one learns to discern physical and mental formations, and one sees there's ultimately no being. E quindi, avendo visto ciò, avendo visto questi due fenomeni o due categorie di fenomeni, uno viene a capire che alla fin fine, insomma, in definitiva, non esiste un vero sé. Further, one comes to understand that certain one comes to understand the interdependence of mind and matter. So one sees how mentality is dependent on materiality, and one equally sees how materiality is dependent on mentality. E inoltre si viene a comprendere anche l'interdipendenza di questi fenomeni, ovvero come i fenomeni materiali dipendono dai fenomeni mentali e come i fenomeni mentali dipendono da quelli materiali. Now, furthermore, and to many of us this can be very important, is certainly this distinction that is certainly being made and understood, namely between unwholesome states and wholesome states. E inoltre, se viene a conoscere, questo per molti di noi è di fondamentale importanza, si riconosce la differenza tra gli stati mentali salutari e gli stati mentali non salutari. Now, when the mind gets the first understanding of wholesomeness in contrast to unwholesomeness, then quite naturally it will start at least intend or inclining more and more towards wholesomeness, and this in the long run may make a big difference in a person's life. Quando la mente ha questa prima esperienza di stati salutari e stati non salutari, quindi quando riesce a fare questa distinzione, tenderà sempre di più verso lo sviluppo degli stati salutari, e questo farà un'enorme differenza nella propria vita. Now also very basic and very practical is suddenly the discovery of mental intentions that precede possibly actions. E un'altra scoperta importante, fondamentale, è anche quello di essere consapevoli delle intenzioni che precedono le nostre azioni. With this discovery of Fatna intentions, one then gains this liberty to decide whether to act on an intention or not. If it's wholesome, we choose to act on it. If it's unwholesome, if it brings harm to ourselves, to others, to both, then we refrain from it. We don't put it into action. E quindi con questa scoperta della possibilità di essere consapevoli delle nostre intenzioni, beh, questo ci dà una libertà di scelta, quindi noi possiamo scegliere se agire sulla base di questa intenzione, se l'intenzione è salutare, oppure se vediamo che l'intenzione non è salutare e crea un danno a noi stessi o agli altri o a tutte e due, possiamo scegliere di non agire sulla base di questa intenzione. And then we further discovered how formations arise owing to conditions, and four basic categories exist, namely a mental formation can be the cause for the arising of a physical result and vice versa. E poi scopriamo anche come le formazioni sorgono sulla base di una precedente causa, quindi il rapporto di causa-effetto nelle formazioni. Abbiamo visto che questo può avvenire in quattro casi, quattro situazioni diverse, quindi può esserci un fenomeno mentale che causa un fenomeno fisico e viceversa. And no one might further discover how one mental object may be the cause and a different mental object then being the result. Oppure si può scoprire come un fenomeno mentale può essere la causa di un altro fenomeno mentale. And then the same thing goes for a material object being a cause and different material object being the result. E lo stesso vale per i fenomeni materiali. Un fenomeno materiale può essere la causa di un altro fenomeno materiale. No. Just within the last couple of days, one retreatant reported clearly seeing how an unwholesome thought arose in her mind, and that then had some immediate impact on the body in the form of the arising of some pain, some tension of the body. E solo negli ultimi due giorni una meditante ha riportato nei colloqui di come uno stato mentale non salutare fosse sorto nella mente e come questo abbia causato uno stato fisico, in questo caso era un dolore, una tensione. Without practice, one might think, well, whatever thoughts I think, never mind, it will be all right. There's no consequences there. But when we carefully observe what is happening among physical and mental formations, we realize it does matter. Senza la pratica uno potrebbe pensare che non ha molta importanza quello che pensiamo, mentre invece attraverso la pratica scopriamo molto chiaramente che invece i nostri pensieri hanno un effetto e quindi sono importanti. Now, we might further understand how by or understand how performing unwholesome deeds, be those physical, verbal or mental, will have unwholesome results. E possiamo anche scoprire come il fatto di fare delle azioni non salutari attraverso il pensiero, la parola o l'azione può portare a dei risultati non salutari. And along the same line, we then see how performing wholesome deeds by body, speech and mind brings about wholesome results. E allo stesso modo possiamo vedere come invece compiere delle azioni salutari con il corpo, la parola e la mente porti a risultati salutari. Now, having seen this a couple of times, we might then realize the implications for life in general. Quindi, avendo visto questo ripetutamente, insomma un po' di volte, possiamo anche capire quali sono le implicazioni nella nostra vita quotidiana. And that then might lead us to decide to, in the future, perform or engage in more and more wholesome activities, since those are going to be bring about wholesome results, and that will contribute to our long-term happiness. E quindi questo ci porterà a compiere sempre più azioni positive, salutari, perché vedremo che questi hanno degli effetti salutari nella nostra vita e con il tempo sappiamo che porteranno sempre una maggiore felicità. Now, more on this in a few moments. Ne parleremo più diffusamente tra qualche momento, tra qualche minuto. Now, within this short retreat period of 8-9 days, many of you have seen the changing nature of formations. So I've seen how objects are in a constant state of flux. In questo breve ritiro di 8-9 giorni, già molti di voi hanno sperimentato questa natura mutevole, cangiante dei fenomeni e hanno visto come i fenomeni sono in un costante flusso. And certain to some, this may have been a new discovery. To some, it may be something very evident. Per alcuni questo può essere stata una nuova scoperta, per altri poteva essere già una cosa abbastanza evidente. Now, seeing the impermanence of formations not only within a retreat, but also outside of a retreat might help a great deal. E quindi il vedere l'impermanenza delle formazioni o dei fenomeni, sia in un ritiro ma anche fuori dal ritiro, può essere di grande aiuto. So if on occasion one life situation changes in one way or another, then one just recognizes, well, this is part of change, this is part of life, and it's then easier to accept. E se durante la vita ci sono dei cambiamenti, che sono inevitabili, la persona può ritenere, vabbè, sì, questo fa parte della vita, è parte dell'esperienza umana, diciamo, e quindi accetta più di buon grado qualsiasi cambiamento, di un tipo o dell'altro, di un tipo o di un altro. Quite a number of you have further gained a first experience or a taste of the unsatisfactoriness of formations. Alcuni di voi hanno avuto esperienza o hanno, come dire, sono arrivati a gustare anche per modo di dire, la natura insoddisfacente dei fenomeni. And ultimately conditioned formations are unsatisfactory. Perché in definitiva, alla fin fine, le formazioni sono non soddisfacenti. The main reason that Satya the Buddha gives in this context is the fact that they are that they keep changing all the time. E la spiegazione che dà il Buddha di questo fenomeno è il fatto che sono causa di insoddisfazione perché cambiano continuamente. There is this wish for or desire for stability, and yet it's not a given. C'è sempre questo desiderio di una certa stabilità e tuttavia non è una cosa scontata. And then as explained certainly yesterday, there's certainly simply there are certain formations that are perceived as certainly being the suffering, such as pains and aches and difficult mental states. Poi, come abbiamo detto ieri, ci sono dei fenomeni, delle formazioni che sono percepite come causa di sofferenza, per esempio i dolori fisici o anche i dolori mentali. There's yet another way of looking at this. If we compare these conditioned formations with the experience of Nibbana, where no conditioned formations arise, then the very arising of new conditioned formations is suffering in comparison to the peace of Nibbana. Possiamo anche confrontare la natura, come dire, condizionata dei fenomeni con invece i fenomeni che non sono condizionati nel Nibbana, e quindi facendo questo confronto è ovvia la sofferenza o l'insoddisfazione insita nei fenomeni condizionati se la paragoniamo appunto con la pace del Nibbana. Now some of you have also maybe even for the first time gained a taste of or had it in the first taste of what the Buddha speaks of as anatta, namely non-self. Alcuni di voi forse hanno avuto una prima esperienza, di nuovo un primo assaggio, di quello che il Buddha chiama anatta, cioè il non-sé. Now, of course, we have to distinguish here between the conventional level of things and the ultimate level. Ovviamente qui dobbiamo distinguere tra il livello convenzionale delle cose e il livello ultimo, la realtà ultima. On a conventional level, people do make use of the self in communication many times, but when it suddenly comes to a deep exploration of what is really happening in the body and the mind, then we find that self to be rather questionable. Ovviamente a livello convenzionale le persone fanno uso di questo concetto del sé per poter vivere, comunicare, però ad un'attenta analisi, a un livello più profondo, se si guardano attentamente i processi fisici e mentali, si vedrà che questa idea del sé è molto si può mettere in dubbio, insomma, dubitabile. Now, if for a lifetime one has cherished this notion, cherished and nourished this certain notion of a self, now one comes to see on occasion that formations are happening of their own accord. At first it might actually be a bit unsettling. Se una persona ha, come dire, è un po' attaccata a questa idea del sé, l'ha nutrita, l'ha fatta sua, quando fa una prima esperienza di non sé, cioè quando vede che le formazioni appunto accadono per proprio conto, sono incontrollabili, questa esperienza può essere un po' destabilizzante. The more one sees that the self in the end is just a concept, a mental construct, and the more one sees its that nature, the easier it gets to stop defending the self and to stop nourishing it, to stop being so preoccupied with the self, and so on and so forth. Quando uno capisce che il sé è solo un concetto, solo una what did you call it? Mental construct. Mental construct, un costrutto mentale, una costruzione mentale. E quando più una persona la vede in questo modo, e più sarà facile staccarsi da esso, smettere di difenderlo, di nutrirlo, o di stop nourishing it and defending it. Smetterà di dargli una così tanta importanza. So if then someone comes along and attacks your views, so what? There's no need to feel offended. It's just a view. Arriva una persona e comincia a attaccare le vostre idee, le vostre opinioni, e beh, e allora cosa importa? Non sono le mie opinioni. And so, the same thing then applies to many other areas of our daily life. E questo poi si applica ovviamente a tante altre sfere della nostra vita quotidiana. Now, when that mental construct that we call a self, when that at times falls away, it doesn't mean that life ends. E quindi quando questo costrutto mentale, diciamo, questo concetto mentale si frantuma, questo non vuol dire che non rappresenta la fine della nostra vita. No. Retreating in the States, apparently, as Sutna said, the mindfulness practice has helped her to be less self-centered and to be more open for others. And that's a very nice observation. There's less occupation with one's own self. And finally, the mind suddenly then can start, finally the mind starts really seeing others. Una meditante americana ha detto durante un ritiro, in un colloquio immagino, che questa pratica della consapevolezza ha fatto sì che lei fosse meno autocentrata, egocentrata, diciamo, ma le ha permesso di aprirsi agli altri. E questo è una cosa molto importante, è uno degli effetti della pratica, che uno comincia anche a dare meno importanza a se stesso e vedere veramente gli altri. No, obviously the practice doesn't stop with this, there's more to explore, and quite a number of you have experienced what is known as the imperfections of insight. So a number of mostly wholesome mental states, and that when one experiences those, one sees the potential of the mind. Ovviamente la pratica non finisce qui, parecchi di voi hanno sperimentato quelli che si chiamano le imperfezioni dell'insight, che sono prevalentemente degli stati mentali positivi, salutari, e permettono al meditante di vedere qual è il potenziale della pratica. And those imperfections of insight, just briefly name them, are illumination, then a sharp and a keen wisdom, then a joy, tranquility, happiness. Allora, solo per menzionarli velocemente, il primo è quello che in inglese si chiama illumination, che in italiano non si può tradurre come illuminazione perché è fuorviante, vuol dire fondamentalmente vedere delle luci nella propria pratica. Il secondo è quello di acuire la capacità di acuire la propria saggezza, poi sorge la gioia, la tranquillità, la felicità, and suddenly then a determined faith followed by strong effort, sharp mindfulness and suddenly equanimity. Poi nasce una forte fede seguita da lo sforzo, la consapevolezza e infine l'equanimità. Non so se l'ho detto nell'ordine giusto, ma sono questi nove. And the last one is attachment, but that's an unwholesome state. E l'ultimo, il decimo, è l'unico di questi stati che non è salutari ed è l'attaccamento. Now, for instance, just suddenly the experience of equanimity, now that suddenly comes up at that point in the practice, may make a huge difference suddenly for the one's daily life. Because for the first time, one has experienced equanimity for oneself. Prior to this, one may not have even heard of the term equanimity. Now finally, it comes up, and one experiences how, with regard to desirable or undesirable objects, the mind simply remains unaffected, unshaken. Prendiamo per esempio lo stato mentale dell'equanimità. Prima di cominciare la pratica, una persona forse non sapeva neanche di cosa si trattasse, non aveva mai avuto esperienza di questo tipo. Invece a questo punto della pratica sorge nella mente, è presente nella mente questo stato di equanimità e la persona si accorge che riesce a stare sia con le esperienze piacevoli che con le esperienze non piacevoli in uno stato appunto di equanimità e di equilibrio. La mente cioè non è influenzata. So once this experience is there, then it can be used as a reference point for one's daily life. And if on occasion one finds suddenly the mind is a bit reactive, then one can remember, oh, there's a different way of handling things. What about some equanimity here? E quindi, avendo sperimentato questo stato, lo si può prendere un po' come riferimento. E quando nella vita quotidiana uno incontra delle difficoltà, vede che la mente è un po' reattiva, può ricordarsi di questo stato e dirsi: ah, perché non utilizziamo qui un po' di equanimità? And so with equanimity present, one definitely suffers less. Sicuramente quando è presente l'equanimità, la persona soffre di meno. No. Some of you have within just these last couple of days experienced a very fast operating of the mind. The mind gaining in speed and its ability to clearly and precisely see new formations has arisen. Alcuni di voi in questi ultimi giorni hanno avuto l'esperienza di una mente che è diventata molto veloce e riesce molto velocemente a cogliere i fenomeni man mano che accadono. Even though an object would arise and suddenly then disappear within just a moment or two, yet suddenly the mind is sharp enough to be with what's happening and suddenly clearly understand. Magari c'è un oggetto che molto velocemente sorge e sparisce, ma la mente è così acuta e così veloce che riesce a cogliere questo fenomeno come nel momento in cui accade. And that then is very different from the state of mind that certainly was prevalent at the very outset of the retreat, when the mind was sluggish and sometimes falling asleep, overcome by doubt, and so on and so forth. E questo è uno stato mentale molto diverso da quello che la persona aveva all'inizio del ritiro, quando la mente era un po' lenta, addormentata, sluggish, slow, overcome by doubts. Sì, ecco, restless. Magari sopraffatta dai dubbi o dall'irrequietezza, insomma, questa mente pesante, diciamo. No. Having gotten this far in the practice and the retreat then ends, naturally the question might suddenly come up, what to do next? Quindi arrivati fino a questo punto della pratica, durante questi giorni di ritiro, uno potrebbe chiedersi, potrebbe sorgere naturale la domanda, beh, e adesso cosa faccio? So to be very clear, the center here does not have enough storage space. So the Dhamma that you've gained during this retreat, please you take with you. I wouldn't be so sure about that. But you can keep. You can keep some of it here. Allora, il Mati dice, questo centro di meditazione non ha, come dire, molto spazio per depositare le cose. Quindi il Dhamma che avete acquisito in questi giorni, portatevelo pure a casa. Well, actually what happens at meditation centers is people come, and then they leave behind a big pile of unwholesomeness for the people at the meditation center to take care of, and then they go away with their package of Dhamma. In realtà quello che succede è che le persone arrivano in un centro di meditazione e lasciano poi tutti i loro bagagli di stati non salutari e invece se ne vanno con il loro bel pacchetto di Dhamma, e questo non è tanto giusto. Now, as a general direction for what Satna to do next, as Satna mentioned earlier on, we want to move in a wholesome direction. So, ideally, we try to perform as many wholesome deeds as possible. Among those classically mentioned are the act of generosity, observing precepts, and certainly the third major group, we have mental development, and then there are many other things that could be done. E quindi per rispondere alla domanda cosa si fa adesso quando si torna a casa, l'abbiamo già detto precedentemente, si cerca di andare nella direzione dello sviluppo di stati salutari della mente o comportamenti salutari, e tradizionalmente si danno tre gruppi o tre categorie, tre ambiti in cui questo avviene. Il primo è fare atti di generosità, quindi sviluppare la generosità. La seconda è mantenere un comportamento etico e quindi seguire i precetti. E il terzo è l'addestramento mentale. Apart from this, we could further develop wholesome qualities such as the four Brahma-viharas, the four divine abidings, namely loving-kindness, compassion, and the sympathetic joy and equanimity. And those qualities then could be developed not only towards our fellow human beings, but also to fellow living beings, including the insects, the birds, the fish, and all parts of nature. Un'altra cosa che possiamo fare è praticare i quattro Brahma Vihara, le quattro dimore divine, che sono la gentilezza amorevole, la compassione, la gioia compartecipe e l'equanimità. E queste qualità della mente che sviluppiamo attraverso queste pratiche, queste qualità le possiamo rivolgere non solo a noi stessi o ai nostri, agli altri esseri umani, diciamo, ma anche a tutti gli esseri viventi, quindi anche agli insetti, gli uccelli, i pesci, tutti gli esseri viventi nella natura. No, it is especially at this point in this globe's history that the environment becomes more and more important. And if we are not careful with our dealings with the environment, then we might certainly experience serious consequences. Quindi in questo periodo storico la nostra questo periodo della nostra terra, l'ambiente è in una situazione di grande rischio, quindi se noi non stiamo attenti a come ci rapportiamo al nostro ambiente, questo può avere delle conseguenze molto serie. No, What we've learned during this retreat in terms of mindfulness, this ideally we take with us, and then we try to integrate into our daily life, and that also includes our being mindful of our relations with nature, with the environment. Quindi quello che noi sviluppiamo in termini di consapevolezza durante un ritiro, questo ce lo portiamo a casa e lo applichiamo anche nella nostra relazione con la natura, la nostra relazione con l'ambiente. No. I could give an entire Dhamma talk on this, but there's no time. Darei su questo, potrei dare un intero, fare un intero discorso di Dhamma su questo punto, ma non abbiamo tempo. No. What we'll do next is highlight aspects certainly related, you know, to mindfulness in daily life. Quindi quello che faremo adesso è sottolineare degli aspetti di come portare la pratica nella vita quotidiana. Now the most fundamental maxim for our mindfulness practice in daily life is keep labeling or label, observe and know whatever predominant object arises in the body or the mind. So it's not different from what you've been doing, you know, during these past few days. Quindi la massima, nel senso il motto che possiamo portarci dietro, portare a casa e applicare nella nostra vita quotidiana è quello di etichettare, osservare e conoscere qualunque cosa che sorga nella mente e nel corpo. Ed è esattamente quello che si è fatto qui durante un ritiro, durante il ritiro. Now, outside of intensive fitness retreat, we might not have as much time to spend formally practicing, and thus it becomes important to integrate mindfulness into our daily life as much as possible. So not only that the mindfulness is applied to or is being practiced during formal sitting or formal walking meditation, but also is integrated into our daily activities, making a phone call during meals, talking to people and so on. Quindi siccome a casa probabilmente non avremo molto tempo per la meditazione formale, è importante integrare la pratica di consapevolezza in tutte le nostre attività quotidiane. Per esempio mentre facciamo una telefonata, mentre mangiamo, mentre stiamo lavorando. No. During intensive mindfulness practice, much development can take place within a short certain period of time in terms of the unfolding of insight knowledges, understanding. In un ritiro intensivo, il progresso della pratica può essere abbastanza veloce in termini di conoscenze degli insights. Conoscenze intuitive. Now, during daily practice, however, this unfolding of the insight knowledges will clearly be not as steep and not as quick. Ovviamente nella vita quotidiana questo sviluppo delle conoscenze, dell'insight, non sarà così profondo, non sarà così veloce. However, if one is pretty patient and keeps up one's mindfulness practice over a longer period of time, and then this can make a big difference. Tuttavia, se una persona continua, ha pazienza intanto, poi ha costanza nella sua pratica quotidiana, allora questo può effettivamente risultare in una grande differenza nella propria, può fare una differenza nella propria vita. Now, if one has, let's say, 2 hours, you know, that certain one can give to, you know, meditation practice, then we could certainly consider, you know, spending 1 hour, you know, doing metta practice, and certainly, you know, spending the second hour doing, you know, vipassana practice. That's just one possible way of doing it. Per esempio, se uno può dedicare 2 ore al giorno alla pratica, allora può dedicare 1 ora a fare la pratica di metta, 1 ora a fare vipassana. Questo è un modo possibile. And please do note that metta practice is what, vipassana practice or samatha practice? Però nota, cioè tenete presente che la metta cos'è? Una pratica di samatha o di vipassana? Samatha, there. So for those who are keen on concentration practice, you could practice metta. Quindi per quelli che sono portati verso la pratica di concentrazione possono fare metta. Now, not only will your concentration improve, but also your relations with others tends to become much more harmonious. Quindi non solo ci sarà un maggiore sviluppo della vostra capacità di concentrazione, ma anche nelle vostre, le vostre relazioni con gli altri tenderanno a essere più armoniose. Now, if you have plenty of time, then you could even consider to do a walking, formal walking meditation once in a while. Se ne avete il tempo, potete considerare la possibilità di fare una meditazione camminata ogni tanto, formale. If you don't have much time, but at but you know, then sometimes you end up getting really upset about something that happened at certain work, and the mind is really agitated, then try to remember mindful walking meditation, and it might make a big difference. A volte, anche se non avete molto tempo, ma siete disturbati da qualcosa che è successo al lavoro, per esempio, allora potete ricordarvi questa pratica della meditazione camminata. Questo può essere di aiuto. No, what might help quite a bit, you know, to ensure, you know, some quality of your daily, you know, sitting practice is to continue to write down your experiences. So after a session, keep writing down your experiences. And now then, if you keep doing this on a daily basis, maybe at the end of the week, go back over your notes, see what you've written there, and maybe try to see the development over time. Quello che può essere utile è scrivere le vostre esperienze dopo ogni seduta, e alla fine della settimana potete rileggere quello che avete scritto. Questo può aiutarvi a vedere come la vostra pratica si sviluppa nell'arco del tempo. And if at times you are facing some difficulty in your meditation practice, you don't quite know what to do, then maybe consider, you know, taking a look at your notes and the advice given during the retreat. And then there might be just the necessary information. Se qualche volta siete un po' in crisi con la vostra pratica, avete qualche dubbio o una difficoltà, potete andare a rileggere, a riguardare gli appunti che avete preso durante il ritiro, e lì potreste trovare una risposta. So, if you are facing some difficulty and you really don't know what to do, and sometimes there's no teacher around, then simply keep going. Keep going with your practice, and probably at the most within 7 days, the answer will be there. The answer will come up quite naturally out of your practice. Se vi trovate in difficoltà nella vostra pratica, non sapete cosa fare, ma non c'è un insegnante a disposizione, continuate a praticare. Come sempre, andate avanti con la vostra pratica e molto probabilmente nell'arco di una settimana, insomma di 7 giorni, la risposta verrà fuori in maniera abbastanza naturale, proprio attraverso l'esperienza diretta, attraverso la vostra pratica. Now, during our daily life, obviously we can not move around as slowly as we do here on retreat. It's actually quite a privilege to have so much time and space and environment where this is possible. Nella nostra vita quotidiana non sarà possibile andare così lentamente come siamo andati qua in un ritiro. Effettivamente è da considerarsi un privilegio la possibilità di avere lo spazio, le condizioni, l'ambiente favorevole a potercela prendere con comodo, con calma. If you walk around and the space you're walking around here at home, you might even annoy some of your family members. Cioè andare a casa. This could be just the minimum. It could be even worse than this. Se a casa andate, la velocità con cui andate qui, cioè con la lentezza con cui siete andati qui durante questo ritiro, potreste effettivamente dare sui nervi, insomma, irritare i vostri familiari, e questo è il minimo che può succedere, potrebbe anche succedere di peggio. What was that? Especially go to Buddhist supermarkets. Supermarket, yeah. You mean mindfully and so on. Yes. Where everybody goes slowly. Yeah, it will be a new way, something to pursue. Puoi aprirne uno tu, dai. Puoi aprirne uno tu. Two clients a day. I think he can open one up, but he would have probably two customers a day. Not very good for business, maybe. Anyways. No. You might also not be able to label everything as you're supposed to do it during an intensive Fatna retreat, and that's fine. As long as Fatna, you're somewhat mindful of what you're doing, of what you're saying, and your most predominant thoughts and predominant mental states. Ovviamente potreste anche non riuscire a etichettare mentalmente così come avete fatto durante il ritiro, e questo ovviamente non importa. La cosa importante è riuscire a essere consapevoli dei vostri pensieri, delle vostre azioni. Mindful of your thoughts, your actions, thoughts, speech. Sì, le vostre parole. And certainly thoughts and mental states, predominant mental states. E anche degli stati mentali predominanti. And certainly with the training in mindfulness that you've undergone during this retreat, your mind is pretty sharp by now. And so during your daily life, you'll be able to rather quickly spot when an unwholesome mental state comes up in your mind. And having this ability then, and understanding somewhat the basic nature of the mind, you then want to be very careful not to act on any intention that is based in an unwholesome mental state. Quindi con lo sviluppo della vostra mente, che avete cioè con la mente che avete sviluppato qui durante un ritiro, che è diventata molto acuta, molto capace di percepire le cose, nella vostra vita quotidiana vi sarà molto più facile cogliere quando sorge uno stato mentale non salutare. Allora, con questa conoscenza acquisita, riuscirete a non agire sulla base di questo stato mentale che è radicato in una intenzione non salutare. To strengthen your, or there's different ways to keep nourishing the faith that has arisen during this retreat. And one of those ways, obviously, is through one's daily practice, integrating mindfulness into one's daily life. Another one would be through reading Dhamma books, downloading Dhamma talks from the internet. And yet another way would be to join or be part of a sitting group. ci sono vari modi per poter nutrire, rinforzare la fede nella pratica che avete sviluppato o conosciuto durante un ritiro. Uno ovviamente è quello di integrare la consapevolezza nella vostra vita quotidiana, però altri modi per sostenere la fede nella pratica possono essere quello di leggere dei libri di Dhamma o scaricare dei discorsi di Dhamma da internet, o meglio ancora quello di entrare a far parte di un gruppo di meditazione. Now, if such a sitting group doesn't exist in the village or town where you live, well, you might even consider starting one. E se non esiste un gruppo di pratica o di meditazione nella città o nella zona in cui abitate, potreste anche considerare l'idea di formarne uno. And so, starting a sitting group means one has to become more active, and one will have to read some suttas in order to share them with others, so the involvement in the Dhamma will immediately go up. E quindi il fatto di iniziare un nuovo gruppo di meditazione significa che la persona diventa più attiva, dovrà leggere un po' di sutta, magari per condividerli con gli altri, e quindi questo fatto di immergersi nel Dhamma farà in modo che la propria fede, fiducia, eccetera, sarà sicuramente rinforzata. No, being part of a sitting group is good in the sense that you will have the support of like-minded people, people to whom mindfulness practice is important. E quindi far parte di un gruppo di meditazione o di un sangha è importante perché permette di frequentare persone che hanno lo stesso modo di vedere, no? Lo stesso tipo di mente. Like-minded people, e questo farà sicuramente di sostegno alla propria pratica. Right. And nowadays, mindfulness practice is becoming somewhat more acceptable in society, so there's less of a problem there. But 10 years ago, that was not necessarily the case. Adesso la pratica di consapevolezza è molto più comune, più accettata nella società, e quindi non dà problemi far parte di un gruppo di meditazione. 10 anni fa era già diverso. And in a sitting group, you might be sitting together, you might be listening to a Dhamma talk together, there might be an exchange of experiences, and questions that might arise might be discussed. E facendo parte di un gruppo di meditazione ci si siede insieme, si ascoltano discorsi insieme, c'è magari una condivisione, si parla dei propri problemi durante la pratica, e quindi può darsi che questi problemi poi vengano anche risolti parlandone con gli altri o chiariti comunque. No. When returning to our daily life, and suddenly we then reunite with our family, our friends, our loved ones, then please do consider that you've been purifying your mind for 8-9 days. So your mind, the degree of purification is pretty high. And don't assume that suddenly your family, your friends, etc., will have undergone the same level of purification. So when you meet them again, they will be as rough as ever. Allora, quando insomma voi avete adesso fatto un ritiro di 8-9 giorni, quindi la vostra mente è abbastanza purificata, e ovviamente tornerete adesso con i vostri amici, colleghi, familiari, eccetera, persone care, e non potete pretendere che la loro mente sia purificata come la vostra, quindi aspettatevi pure delle menti molto grezze, molto grossolane. You'll have an opportunity to be patient with them. E quindi questo vi dà l'opportunità di essere molto pazienti. No, Going back to daily life can also be seen as an acid test for what has been gained during your retreat. E questo può essere anche il ritorno alla vita quotidiana può essere anche un come si chiama in italiano quando si fa il test di i chimici, no, che mettono la cartina di tornasole per la vostra pratica. Mm. No. I'll give you an example of someone who failed the acid test. Vi faccio un esempio di una persona che non ha passato questo test della cartina di tornasole. A real story, a story. È una storia vera. A retreatant from a European country did a 1 month sadhana retreat, it appears, at sadhana meditation center in Asia. And sadhana then. No, retreat was over. Went off, had a train ticket for a train back to another major city. In Asia. Ok, quindi un meditante di un paese europeo che è andato a fare un ritiro intensivo di un mese in un paese asiatico e finito il ritiro compra un biglietto del treno per arrivare in una città importante lì vicino. So, he then went by taxi or by some means of transportation to the train station. Got there but pretty late. E poi prende un taxi per arrivare alla stazione per prendere questo treno, ma arriva in ritardo. And he tried to get the station master to stop the train and to keep and to make it wait so that he could still board the train. E quindi è arrivato lì, ha cercato di dire al conduttore del treno, al capostazione di fermare il treno in modo che lui avesse il tempo di salirci sopra. However, the train took off without him. Tuttavia il treno è partito senza di lui. And he got so upset, he stormed into the office of Futner, the station master. The station master was by then in there, sitting at his desk, and he kicked the desk. Allora, praticamente arrabbiato al punto di entrare nell'ufficio del capostazione, che a quel punto era seduto lì alla sua scrivania, e in un momento di grande rabbia e furore ha dato un calcio a questo, alla persona, alla scrivania. Sì. So I do hope that you will, after this retreat, you will pass the acid test and not behave like this certain person given in this story. Quindi spero che voi passiate invece questo test della cartina di tornasole e non reagiate, non vi comportiate come questo meditante. So if after an intensive retreat of 1 month, the result is a burst of anger, the results are questionable. Quindi se dopo un mese di ritiro intensivo vi trovate a avere queste esplosioni di rabbia, allora il risultato del vostro ritiro non è così chiaro, insomma, è dubitabile. When one thing becomes Lourdes is better. One thing then becomes clear that there's a need for another retreat. Allora, quello che diventa molto chiaro allora a questo punto è che c'è bisogno di fare un altro ritiro. Yeah. No. What has not been mentioned so far is that even for our daily mindfulness practice, be it a formal practice or integrating it into daily life, we do want to keep the precepts, at least the 5 precepts. Una cosa molto importante che rimane da dire è che anche se il ritiro è finito, torniamo a casa, però vogliamo continuare a rispettare i 5 precetti, integrare i 5 precetti nella nostra vita. No, you might say, well, for this Satna teacher, there's easy to encourage keeping the five precepts, but I live in a wine-drinking country, like Italy. Voi so, potreste pensare, what to do. Sì, è facile per questo insegnante venire qui e consigliarci di seguire i cinque precetti, ma io vivo in un paese di bevitori di vino, e quindi come posso fare? No, and this certain point really comes up again and again with having it, sharing a dinner with family and friends, and it's good practice to drink a glass of wine. And then as a retreatant, if you show up and say that I won't drink any wine, this may create a major riot. Storm. Quindi questo è un problema che viene fuori abbastanza spesso, nel senso che in paesi come l'Italia, per esempio, si usa andare a mangiare con famiglia, amici, insomma, intorno al tavolo c'è una bottiglia di vino, viene offerto il vino, e se un meditante dice no, io non bevo alcolici, questo può provocare, mi dice una rista, dice beh, non esageriamo, magari un po' di disturbo, ecco. So ideally you can, instead of drinking wine, there's alternatives, so you could go for a glass of orange juice or some apple juice or something like that. Idealmente potreste optare per un'alternativa, chiedere magari un succo di frutta, un succo di arancio, ma qualcuno da dietro dice che non funziona. Now, to actually live the five precepts requires quite a lot of courage. Quindi vivere veramente fino in fondo i cinque precetti richiede una certa dose di coraggio. And if one sees the deeper meaning and the benefits that can arise from keeping the five precepts, one will be more prepared to then also defend those five precepts. E se uno capisce veramente in profondità il significato profondo dei cinque precetti, allora riuscirà a difenderli in un certo modo e veramente viverli pienamente. And so, living according to the five precepts will definitely help to simplify your mind, and your conduct for sure will become increasingly ethical. E quindi seguire i cinque precetti semplificherà la vostra mente e la vostra condotta sarà sicuramente etica. And certainly your friends and relatives sooner or later will notice this and start appreciating you. E i vostri amici, i vostri parenti, presto lo riconosceranno questo, cominceranno ad apprezzarlo. Now, a question that certainly also comes up frequently is, I've reached such and such a level during my intensive retreat, and what happens to this during daily practice? Am I going to lose it all? Un'altra domanda che spesso viene posta è questa: io ho raggiunto durante questo ritiro intensivo un certo livello nella mia pratica, cosa succede adesso che vado a casa e faccio una pratica più quotidiana, diciamo? Perderò questo livello raggiunto? No, if you have time, let's say 3-4 hours for your formal daily practice, great. Then you might, over a longer period of time, be able to maintain the level of understanding that you've gained during an intensive retreat. Se avete la possibilità di praticare tra le 3 e le 4 ore al giorno per un periodo abbastanza lungo, allora è possibile che voi manteniate il livello raggiunto durante il ritiro intensivo. No, if you don't have that much time, let's say just half an hour, then the momentum that has built up in terms of your mindfulness, concentration, intuitive wisdom during the retreat, that will go on for still a few more weeks at least. Se invece avete solo mezz'ora, un'ora al giorno, allora questo, come dire, ritmo che avete iniziato, insomma, che avete attivato durante il vostro ritiro intensivo in termini di consapevolezza, concentrazione e saggezza intuitiva, beh, per un po' andrà avanti per diverse settimane. But then, as you might get more and more busy, you'll have less time for practice, and suddenly then the momentum drops off. Però è facile che poi, man mano che la vostra vita diventa più affannata e piena di impegni, è facile che questo ritmo, insomma, diminuisca. And so, at that point, you may not your practice may be somewhat sudden again during the beginning stages. E quindi può essere che a quel punto la vostra pratica cada, diciamo, e raggiunga un po' i livelli iniziali. However, our daily practice very much helps sudden to balance all the activities, all the things that happen during daily life. And so in the course of a day, a number of impurities will pile up in the mind. With our daily formal session, sitting session, we can then look at all of this and let go and end up with a state of mind that is relatively purified. Ecco, però con l'attività regolare, la pratica formale regolare durante la nostra vita, riusciremo a mantenere un certo equilibrio nella mente. Quindi se a fine giornata, per esempio, ci sediamo, allora ci sono tutta una serie di impurità, diciamo, che si accumulano durante la giornata. Durante quella sessione abbiamo la possibilità di osservarli, di lasciarli andare, e quindi alla fine ci sarà una graduale purificazione della mente. Now, over time, your daily practice then will give you an opportunity to see what's going on in the body, in the mind. Your familiarity with the Dhamma will gradually increase. Quindi con una pratica quotidiana regolare riuscirete a vedere sempre meglio quello che accade nella vostra mente, nel vostro corpo, ovvero aumenterà la vostra familiarità con il Dhamma. And suddenly that then prepares suddenly the ground for the next retreat. E quindi è come se voi preparaste il terreno per il ritiro successivo. And suddenly then you don't have to be afraid anymore of what might happen during the next retreat. E quindi potreste anche non avere più paura di che cosa potrà succedere al prossimo ritiro. No. And suddenly so. And then during the following retreat, already a good foundation is there, much more experience is there, and you'll know exactly, or you'll know pretty much what to expect and what to do. E poi al ritiro successivo ci sarà già una certa esperienza, una certa stabilità, potrete già aspettarvi quello che succede, quindi saprete cosa fare, perché ci sarà già una base. And so during that following retreat, you might go for a slightly longer retreat, and with this then give yourself an opportunity to go even deeper in the practice. Quindi il ritiro successivo magari può essere anche un po' più lungo, e vi potete dare la possibilità di andare più in profondità nella pratica. And then once that retreat is over, you go back to your daily practice, and then you keep alternating daily practice with intensive practice. E poi dopo quel ritiro tornate alla vostra vita, quindi alla vostra pratica quotidiana, e in questo modo alternate la pratica intensiva con la pratica quotidiana. No. The value of mindfulness practice is Satya being appreciated more and Satya more by various sectors of society. Quindi il valore della pratica della consapevolezza è apprezzato, valorizzato sempre più da vari settori della società. So, the mindfulness Satya practice is Satya these days well, very popular as part of those mindfulness-based stress reduction programs, and certainly which help people deal with chronic pains, with stress. Per esempio, la pratica di consapevolezza fa parte di quell'approccio che è il MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, quindi la riduzione dello stress attraverso la consapevolezza, che aiuta le persone ad affrontare i problemi di dolori cronici o di stress. Mindfulness practice is certainly even being taught in prisons. La pratica di consapevolezza viene anche insegnata nelle prigioni. And certainly when it comes to the field of psychology and psychotherapy, then more and more psychologists come and attend Vipassana retreats. E per quanto riguarda il settore della psicologia, psicoterapia, ci sono sempre più psicologi che vengono ai ritiri di Vipassana. And what they learn in a Vipassana retreat that certainly then they use in helping their clients. E quello che imparano in un ritiro di Vipassana poi lo utilizzano per aiutare i loro pazienti, clienti. Now, mindfulness satya practice can also come in really handy in a conflict satya situation. And where it's important that satya we listen and speak with mindfulness. We listen with mindfulness and empathy, so with compassion, to what the other person is saying. We try to fathom where the other person is coming from. And when we ourselves speak, then we do so mindfully, being very aware of what we are going to say, of the tone with which we say things, and gestures, etc., etc. Nell'ambito della gestione dei conflitti, la pratica di consapevolezza è molto utile. Quando ci troviamo appunto in una situazione di conflitto, è molto importante sia ascoltare che parlare con consapevolezza. Nell'ascolto è importante sviluppare empatia e attenzione verso e compassione anche verso le parole dell'altro, e anche nel pronunciare le proprie parole è importante essere consapevoli ovviamente di cosa si dice, ma anche del tono che si usa e del linguaggio non verbale, dei gesti che accompagnano le nostre parole. With mindfulness satya meditation, one has gained some initial understanding, at least, of mental states, and satya, thus it would be relatively easy to recognize satya, the prevalent mental states that occur in a conflict. So does a conflict arise? Is a conflict there owing to ill will, or to a misperception, or wrong understanding, or what? Con la pratica di consapevolezza si acquisisce una maggiore familiarità rispetto agli stati mentali, e quindi questa esperienza aiuta in una situazione di conflitto a comprendere quali sono gli stati mentali coinvolti in questo conflitto, in questa conversazione. Allora si potrà capire se il conflitto nasce da uno stato mentale di malevolenza o di una interpretazione sbagliata o altro, insomma. Now, mindfulness practice is even being now taught in schools, which then is to the benefit of the children. Adesso la pratica di consapevolezza viene anche insegnata nelle scuole, e ovviamente questo va a beneficio dei bambini o degli studenti. Now in the States, certain, for instance, lawyers and some the people in the legal professions, at least some are taking to mindfulness practice. Negli Stati Uniti, per esempio, anche gli avvocati oppure persone nelle professioni legali stanno cominciando anche loro a frequentare corsi di mindfulness o praticare la consapevolezza. And especially when it comes to legal issues, does one really need to go to court for every case, or are there other ways of settling an issue? E anche qui, nell'ambito appunto della professione legale, è importante lo sviluppo della consapevolezza, perché forse non sempre è necessario portare la persona in tribunale, a volte si possono risolvere le questioni legali in altro modo. No. One retreatant has certainly pointed out that clear comprehension of the benefit or purpose of an action, of a planned action, is also worth paying attention to. Un meditante ha anche sottolineato il fatto che conoscere il beneficio, gli effetti benefici di una certa azione, questo è una cosa importante da tenere a mente, una cosa importante da considerare. So, to elaborate on this just a little bit, if our main goal is to further deepen our mindfulness concentration and especially the intuitive wisdom, then we might certainly want to gradually we might certainly want to engage in activities that support this general direction and disengage from other activities that maybe cause more distraction, more absent-mindedness and so on. Per esempio, se decidiamo che porta dei benefici, quindi che è importante per la nostra vita sviluppare la consapevolezza, la concentrazione e soprattutto la conoscenza intuitiva, insomma la saggezza intuitiva, allora noi ci attiveremo per fare quelle azioni che vanno in quella direzione, cioè che sostengano quel tipo di decisione, quel tipo di impegno o di attività, e invece cercheremo di non seguire altre attività o altre iniziative, diciamo, che possano invece essere distrazioni rispetto a questo nostro obiettivo. No. One more, again, practical point that was suggested by retreating from Australia, an elderly man, he's already way past 70 years and still going very strong and still very interested in mindfulness practice. And a one-month retreat is just too short, and so he's done several times now. Prior to the beginning of the formal retreat, at home he boosted his daily practice to 3-4 hours a day, and that suddenly made a big difference. Un altro suggerimento pratico che viene da un meditante australiano che ha già una certa età, però è molto motivato nella sua pratica, e che lui dice: beh, un mese di ritiro non è sufficiente, e quindi prima di questo ritiro intensivo di un mese lui è come se spingesse la sua pratica, e quindi fa una pratica di 2 o 3 ore al giorno proprio in preparazione del ritiro. And the other retreatants were still having a hard time dealing with the hindrances. This particular retreatant just had smooth sailing. Mentre gli altri praticanti all'inizio di un ritiro erano lì che combattevano contro i 5 ostacoli che si presentano appunto all'inizio, questo meditante che si era preparato prima aveva una navigazione tranquilla. And now, if your mindfulness meditation has gone really, really deep, then after retreat, you want to be careful when driving. And if you do get too concentrated or too much into your Dhamma practice while driving, then, you know, maybe then accident could happen. Mm. Quindi se siete andati molto in profondità durante questo ritiro nella vostra pratica, allora fate molta attenzione a rimettervi alla guida, perché lì potreste avere dei problemi, insomma. Se siete troppo concentrati, presi dalla pratica, anche mentre state guidando, potreste avere un incidente. No, these are just it's just a potpourri of different certain points that you could consider for your daily practice. Please, you have to be creative, and certain find that go according to the circumstances that you have or that prevail at home, and certain use the situation as best as you can. Questo è solo un insieme, insomma, un potpourri di suggerimenti, di consigli per la vostra pratica, però il Venerabile vi suggerisce di essere creativi e di usare le circostanze, no, che vi trovate a casa nel miglior modo possibile. Sì, ve lo chiedo, però sul sito abbiamo una bibliografia, se ti interessa. She's asking if you can suggest some books to read. But I said that on our website we have a list. Ma sul sito c'è la bibliografia. No, allow me to express my gratitude to Jenny, Sandra, and all the volunteers here at the center for the marvelous job that you've been doing for years and years now, running the center and enabling so many people from many different countries, especially European countries, to come here and practice here. Allow me further to express my gratitude to all retreatants here who've been practicing wholeheartedly, as I said, diligently, and it's been quite inspiring, and I do hope that this retreat will then give you an impetus to go on. And also much gratitude goes to the birds and insects and all those who've made this environment possible. And most gratitude, of course, goes to the Buddha. The Buddha for making, for sharing these satna teachings with satna humanity, and teachings that satna do make a difference and contribute to more and more peace. So gratitude to the Buddha and all the many people who have been passed on these teachings over many generations, including the venerable Mahasi Sada of Burma, the venerable Sada Upandita Biwans, my direct spiritual teacher, and many others. Ok, quindi una serie di ringraziamenti, ringrazia me, Gianni e tutto lo staff di Candy Ciliegi per il lavoro che stiamo facendo qui, perché da anni insomma, manteniamo questo posto, diamo la possibilità a così tante persone di venire a fare i ritiri, soprattutto persone dall'Europa ma anche da altre parti del mondo. Poi ringrazio tutti voi per l'impegno che avete messo nella pratica, siete stati molto diligenti, avete praticato con tutto voi stessi, insomma, e ringrazio anche la natura qui intorno, gli uccelli, gli insetti e tutte le cose che hanno contribuito a creare questo posto, e poi ovviamente molta gratitudine verso il Buddha, questo uomo che ha offerto così generosamente i suoi insegnamenti all'umanità e che ha permesso a così tante persone di avere un grande cambiamento nella propria vita. Ringrazio anche Mahasi Sayadaw questo maestro birmano, e Sayadaw Upandita, che è il suo diretto maestro spirituale, che hanno tramandato insomma questa tradizione, il Dhamma, fino ad arrivare a noi, and other teachers. E anche tutti gli altri insegnanti, ovviamente, che dedicano la loro vita a trasmettere il Dhamma. Io penso che posso parlare a nome di tutti, siccome siamo in tema di ringraziamenti, ringraziare con un grande sadhu, sadhu, sadhu, magari tutti insieme, il venerabile Vivekananda che è stato qui e ci ha veramente offerto la sua grande esperienza, la sua conoscenza del Dhamma. È un grosso privilegio per noi a Pian dei Ciliegi ovviamente averlo qui, e dicevamo prima con Gianni che ormai è una razza in via di estinzione, nel senso che è veramente unico nel suo genere ed è un grosso privilegio. Quindi direi di ringraziarlo con tre volte sadhu, che in Pali vuol dire così sia, però ho ben detto, però anche un modo per ringraziare. So, I'll translate in English now for the English speakers. So since we're talking about your expressing gratitude and appreciation, then we'd like to also, I'd like to express mine personally, but I think I'm also expressing everybody else's for your being here, for your teaching, and you're sharing your great knowledge and profound knowledge of the Dhamma and experience with all of us. And I was saying what a great privilege it is for us to have you here, and that you are a rare teacher. Oh, come on! So to so have you here. Can't be that. And I was. What's that? They want you here for Christmas also. It says you're. A summer model and a winter model, he wants. So I was suggesting that we send Vivekananda with three very heartfelt sadhu, sadhu, sadhus. So, sadhu, sadhu, sadhu. Grazie alla cucina, Manuela, Domenica e Maria Sole. Un ringraziamento ovviamente allo staff di cucina, che è invisibile ma molto presente, molto importante durante i ritiri, che sono Domenica, la cuoca, Maria Sole ed Emanuela. Sadhu, sadhu, sadhu, anche a voi.